Can you see it, my brother? Can you see the new? Sister, can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brothers? Can you see the new? See the new? Partono subito i magazine perché abbiamo una possibilità, come ben sapete il lunedì è dedicato anche alla saggistica, avremo la possibilità con il 333-180-9494, ci sarà il quiz e la possibilità di avere il saggio della settimana in occasione di una presentazione all'interno di una rassegna che conosceremo a breve. Ma a proposito di co-conduzione e comunicazione in diretta, ringrazio Paola che mi ricorda, ok è freddo però in cielo vi sono colori bellissimi, è un po' più freddo, adesso non voglio esagerare, Matteo la pensa come me che dice solo 13 gradi, è la stagione, l'importante è che con il Breakfast Club si proceda con le notizie, gli approfondimenti e tutto quello che può essere un buon lunedì mattina. E quindi, come vi ho detto, la rassegna La Voce degli Antichi all'oratorio San Filippo Neri darà certamente un buon auspicio a quest'inizio settimana. Protagonista per il primo incontro Antonella Prenner, che è qua in diretta con noi. Buongiorno Antonella. Buongiorno. Grazie per essere così mattiniera, anche perché avremo modo di conversare su quello che è un'epoca molto importante che ha delle attinenze quanto mai legate al presente. Del resto, come dico spesso, alcune narrazioni restano poi tutti i tempi. Marco Anneo Lucano, Nostalgie di libertà, il saggio edito dal Mulino di cui Antonella Prenner è autrice, può essere assolutamente una testimonianza fondamentale. Inizia quindi la rassegna, sarà all'oratorio San Filippo Neri martedì 17 ottobre ovviamente 2023 alle ore 17. Antonella, direi di iniziare. Perché questa scelta e chi era Marco Anneo Lucano? Marco Anneo Lucano era un poeta, un giovanissimo poeta che concluse presto la sua vita a 25 anni e che scrisse questo suo poema Farsalia o Bellum Civile, la guerra civile, come è intitolato, durante il regno di Nerone. Di Nerone era amico, della corte di Nerone faceva parte, aveva amicizie importanti, parentele importanti, per esempio era lo zio di un nipote di Seneca, il filosofo, insomma un intreccio di relazioni che fanno di questo personaggio davvero una personalità interessante e soprattutto mi è piaciuto per la sua età, perché è un poeta giovane che vive in un momento difficile e che si sente come tanti ragazzi nato nel tempo sbagliato, nel periodo sbagliato, che vagheggia un tempo che non c'è più, che forse è idealizzato proprio perché non l'ha vissuto. Quindi questo è stato il motivo per cui ho scelto questo poeta e la sua opera a cui dare voce. Peraltro consentitemi di dire due parole su questa collana in cui è inserito il mio saggio La Voce degli Antichi. Perché del passato? Perché si cerca di far conoscere a un pubblico che non sia per forza di specialisti la voce di questi autori, di questi poeti, perché hanno tante consonanze con il nostro tempo, e quindi di incoraggiare la lettura, la conoscenza di un mondo letterario che non è più, però come ha detto lei, che ha ancora tante cose da dire. Allora, io non sono certo un accademico, quindi mi sento coinvolto e vi ringrazio per dare questa possibilità anche a chi non ha avuto la possibilità di studiare. Nelle Nostalgie di libertà, che ho avuto la possibilità di leggere nella sua uscita ed ho trovato molto bello, sono ben contento di questo inizio, ma del resto tutta la rassegna è bellissima. Lucano ha, secondo me, una propensione a scrivere non per il potere, ma scrivere per il popolo. È un'intuizione abbastanza azzeccata? Sì, Lucano non scrive per il potere, anzi lui con il potere, certo, con il potere del suo tempo, ha un rapporto molto difficile, un rapporto contraddittorio che sembra incominciare bene, proprio per le sue relazioni, per l'amicizia forte con il principe Nerone e con tutto ciò che ruotava intorno alla figura di Nerone. Poi però sembra che questo rapporto evolva in negativo con Nerone e di conseguenza con il potere, quindi rispetto al potere diventa fortemente critico e di potere muore. Perché Lucano è una delle vittime di Nerone, personaggio a cui l'imperatore stesso impone il suicidio per aver partecipato realmente o presuntamente ad una congiura che lo voleva morto. Quindi il rapporto di Lucano con il potere è difficilissimo e rappresenta forse un po' la difficoltà del rapporto di tante generazioni con il potere del loro tempo. Quindi Lucano non parla al potere, parla al potere contemporaneamente, parla a cittadini che un tempo erano cives, quindi cittadini che vivevano in una res pubblica dove vigeva la libertas, una sorta di libertà, e che invece con il principato, in particolare sotto Nerone, sono diventati sudditi. Non c'era più quella libertas, quella libertà. Lucano ne ha nostalgia e quindi è a queste persone che parla, a questa categoria di esseri umani che sono sicuramente i cittadini, i sudditi di quel tempo, ma che nel corso dei secoli sono stati gli uomini di tanti tempi e molti si possono riconoscere ancora oggi in questo tipo di rapporto complesso e difficile con il potere, con l'esercizio del potere, più che con il potere come categoria universale. Certo, e ovviamente questa attenta precisazione ci porta ai nostri tempi anche a un'attenzione sulla censura, sull'attacco alle voci libere e su tutto quello che può essere un percorso legato a un'informazione più estesa. E ha influito questa sua parentela molto importante? Ricordiamo che lui era nipote di Seneca, no? Sì, era nipote di Seneca, beh, sicuramente ha influito. Seneca era il precettore, il maestro di Nerone, okay, voluto proprio dalla madre di Nerone, la famosissima e tremenda Agrippina. E in effetti finché Nerone è stato curato, diciamo così, dalle attenzioni di Seneca nella gestione del regno, ha esercitato bene il potere. Poi le cose sono cambiate. Ecco, Lucano si trova a cavallo tra questi due momenti, vive la parte buona e poi vive la degenerazione del potere. Quindi da giovane qual era? Ricordo che Lucano muore nel modo che ho detto a 25 anni, visse entrambe le fasi. E certamente la parentela con Seneca lo agevolò moltissimo nella carriera politica, lo agevolò nell'entrare nella corte inizialmente nelle grazie di Nerone e lo agevolò anche per il suo successo. Lucano ebbe un successo straordinario nei primi tempi e poi qualcuno sostiene che il suo rapporto con l'imperatore si deteriorò anche per questo, perché Nerone era geloso di tanto, sì, successo. Nerone, che sappiamo insomma nelle, chiamiamole pure caricature, che a volte anche nei nostri tempi vengono realizzate, viene rappresentato come un velleitario della letteratura, della poesia, dell'arte, del canto. Addirittura mi piace ricordare, c'è un biografo, Svetonio, che nella vita di Nerone racconta che il principe costringeva il popolo ad andare a teatro per sentirlo cantare e gli spettatori preferivano buttarsi dall'alto dei muri del teatro rischiando di morire pur di non sentire le orecchie tormentate da quelle stonature. Ecco, insomma, questo personaggio a volte macchietta è sicuramente però entrato in una sorta di conflitto artistico con il suo amico, che è stato anche un suo protetto e con il quale certamente non per questo, ma per ragioni più complesse, forse anche un po' per questo, l'amicizia si è deteriorata profondamente. Quindi la parentela con un personaggio così importante è stata sicuramente il viatico per il successo, ma forse gli hanno ciuto anche un po'. A soli 25 anni. E 25 anni, un ragazzo. Sì, indotto al suicidio. E la voce degli antichi risuona all'oratorio San Filippo Neri, grazie a diversi incontri che seguiremo ogni volta, magari all'interno dei magazine, che è dedicata alla saggistica anche, oltre che la rassegna stampa culturale tratta dai principali inserti allegati ai weekend, allegati ai quotidiani usciti nel weekend. E quindi ribadisco che martedì 17 ottobre ottobre nell'oratorio San Filippo Neri alle ore 17. Marco Anneo Lucano, Nostalgia di Libertà, edizioni Il Mulino. Con noi Antonella Prenner, che ne ha dato un'anticipazione, autrice del lavoro stesso, che ringrazio tantissimo per questa bella conversazione. Grazie a voi, buona giornata. Ci vediamo martedì. Grazie. La rassegna di presentazione all'interno della collana di saggistica del Mulino per La Voce degli Antichi inizierà così. Vorrei presentarli tutti perché sono veramente interessanti, assolutamente da leggere. Non conoscevo questa figura, lo ammetto, come ho anticipato, non sono certo un accademico, però probabilmente ascoltare La Voce degli Antichi aiuta anche a capire il presente, anzi. E avere la possibilità con chi ne ha dato approfondimento è decisamente un valore aggiunto. Sarà domani alle ore 17 all'oratorio San Filippo Neri. Inizia la collana La Voce degli Antichi. Marco Anneo Lucano, Nostalgie di Libertà. A tra poco, con l'inizio dei magazine, in seguito un last minute che porterà a conclusione la nostra colazione di lunedì. A tra poco, buon ascolto. Con questo brivido drum and bass torniamo in diretta dalla Mold Listening Pearls, le perle da ascoltare, Living Some Dreams, la Mold Recording tedesca. Perché oggi mi sento un po' freddoso, questi nuovi termini. Nuovi termini, insomma, ma non tanto, vengono ripresi da un controdizionario a pagina 20 dalla lettura del Corriere della Sera. Eccoli qua i nostri magazine. Iniziamo così, visto la giornata e qualche brivido dovuto al cambio di stagione, e questi termini che io non amo tantissimo, ma in questo caso vi è un'intersezione, ci sono parole a volte vere, a volte inventate, che appartengono alla sfera più intima, familiare, ed è un professore di Inzago in provincia di Milano che ha invitato i suoi studenti a raccoglierle, perché ha fatto un controdizionario. Per conoscerci dobbiamo capirci, anche questo è vero. Il dialetto è cultura, il dialetto ricordo che non è una lingua assolutamente, perché è tramandato oralmente, non ha una grammatica vera e propria, per cui è importante parlarlo. E infatti guarda un po', il quiz al 333-180-9494 per avere il saggio che darà il via all'incontro La Voce degli Antichi sarà appunto con queste caratteristiche. Ricordo che sarà domani alle ore 17 all'oratorio San Filippo Neri, Nostalgie di Libertà, Marco Anneo Lucano di Antonella Prenner, è il saggio della settimana. L'argomentazione non è una lingua latina, ma è molto più vicina, se vogliamo, oltre che al nostro tempo, al nostro modo di parlare. Non ha ovviamente neologismi, tutto quello che troviamo in questo controdizionario, ma è un insieme di termini che danno tra il dialetto, il modo di dire, l'italiano, l'italiano arcaico, delle terminologie nuove. Beh, ce ne sono alcuni che sono veramente curiosi, ad esempio questo freddoso, che chiaramente è freddoloso, quindi ha anche nella pronuncia qualcosa che riporta al significato. Otteso, dicesi di persona costantemente alla ricerca di attenzioni, soprattutto attenzioni sessuali, fa la festa in discoteca, marca era ottesa in modo imbarazzante, insomma si metteva in bella mostra perché cercava un abbraccio molto forte, ecco, lo traduco in maniera un po' più edulcorata. Oppure querta, beh, querta è abbastanza intuibile, è coperta, espressione dialettale lombarda che usava, dice il professore, anche la mia bisnonna per indicare la coperta, e anche mia nonna raramente, ma la usa ancora. Zuzzino, zuzzina è indicato per, uno dice no, uno che non si lava molto, no, è per indicare una persona particolarmente cara. Poi bruttissimo questo, che è maranza, è una persona rozza, è un termine diffuso nel gergo giovanile, vocabolo utilizzato per descrivere un certo tipo di persona vestita con capi di lusso, tendenzialmente contraffatti, con atteggiamenti volgari e talvolta anche aggressivi, intimidatori, che si omologa con la moda del momento. Per deviare il loro comportamento bisogna atteggiarsi in maniera disinvolta, ad esempio è vestito così, tu mi sembri proprio un maranza, ecco, quindi stravolgere questa definizione e intenderla per quello che è, cioè alla fine poi una persona sgradevole. Alcuni li conosciamo, alcuni sono intuibili. Essere freddoso viene dal siciliano, che poi la traduzione è freddolosa. Insomma, vi è questo controdizionario, che Graziano Gala, curatore di questa composizione linguistica, controdizionario della lingua italiana, Baldini Castoldi è appunto l'editore, visto che parliamo in questo caso di modalità di discorso e di pensiero che con la parola scuola diventano assolutamente protagonisti e importanti. Ne abbiamo diverse adesso di modalità di espressione, alcune sono anche abbastanza banali, secondo me sgradevoli, reiterate, con intersezioni con l'inglese, in maniera forzata, non le sto a elencare perché ben le conoscete. E infodemia, questo invece è un termine che trovo a pagina 25 di Robinson, che ci ho messo un po', infatti mi ha subito incuriosito questa definizione. Un grande filosofo tedesco, Jürgen Habermas, torna con una raccolta di saggi dedicato all'impatto dei social sulla democrazia e non è certo ottimista. Viene definito tutto ciò un'infodemia, che insomma ha a che fare anche con un desinenza finale del gergo che è pandemia, insomma non è molto rassicurante, ecco, non è bellissimo. Ed è un lavoro che viene presentato da Robinson, nuovo mutamento della sfera politica deliberativa. Il saggio preso dalle edizioni di Raffaello Cortina, che per quanto riguarda la saggistica è veramente un'eccellenza. Il problema è legato, attenzione, qui sono pienamente d'accordo, alla ripetitività dei messaggi che impedisce argomentazioni coerenti, cioè di determinati aspetti legati al pensiero unico ne sentiamo in continuazione, quindi non abbiamo la possibilità di ribattere, perché appena c'è un accenno di qualcosa di diverso viene immediatamente messo a tacere con una continuità di queste informazioni infodemiche. Non so se posso usare questo termine. Fra i termini che abbiamo trovato e il buco nero dell'infodemia, io prendo Gil Scott-Heron, che secondo me resta, a proposito di poesia, un'eccellenza per la poesia afroamericana, per il soul, e ne è un approfondimento anche su Alias del Manifesto, che tra poco prenderemo. Con le sue parole ai ragazzi invitava, ok, il messaggio parlato, il rap, io stesso parlo e compongo in questo modo, però mi raccomando, lo studio e lo studio sulla musica. E certo che accompagnato con la modalità del vocal jazz e del messaggio parlato, ben venga, ma mi raccomando, studiate e studiate musica. Eccolo qua, Gil Scott-Heron. Poi rientriamo, perché poi vi porto anche il quiz che darà la possibilità a voi, ascoltatrici e ascoltatori, di avere il saggio presentato poco fa. I seem to be running from the truth. I ask myself questions, but it just ain't no use. 'Cause it seems no matter what I try to do, I'm still loving and living, lying and losing every day. Say the least, it don't mean a thing. It don't mean a thing. It don't begin to compare with the hurt and pain that I've seen. I've seen. Sometimes I know I can't tell wrong from right. Wrong from right. I don't seem to know day from night. Small wonder that the whole world's uptight. They're just loving and living, lying and losing every day. Every day. Stop on the way home from work to have a drink, just to give myself a little time to think. 'Cause it seems that more and more I start to realize that the truth that I wanted, the love that I needed, has somehow disappeared before my eyes. I can't seem to find the words I need to say. enough to play the games you need, to play. To play. 'Cause every day you got me, running from the truth. And no matter, what I try to do, it seems that somehow it just ain't no use. Pater, note furiose, miti, un live inedito e una graphic novel celebrano il cantante e poeta. Questo è il suo primo disco, un disco minimale, un disco di poesie, come ben potete ascoltare, musica soul, note che sono molto incisive, oltre che furiose, a volte anche cariche di sentimento, di denuncia sociale, di grande gusto musicale. Pagina 14 di Alias del Manifesto, questo mio eroe. Io ho la passione per Gil Scott Heron, lo sapete bene, lo propongo spesso nei format del Breakfast Club e ne abbiamo la possibilità di conoscere con Antonio Bacciocchi un'ulteriore modalità di informazione, cioè con il fumetto, con la graphic novel. Celebra il cantante poeta, si presenta con un disco assolutamente minimale, con un po' di timore anche a Bob Till, che il producer, grande produttore, che sarà un po' così, non dico restio, però prima vuol vedere il risultato, prima di concedere contratto e possibilità al poeta musicista Gil Scott Heron. Ma così sarà, perché anche il primo lavoro sarà di grande successo per tutto un mondo curioso di musica, poesia, buon gusto soul. Ovviamente consiglio questa musica, queste note che vengono definite furiose, ma non solo, aggiungerei io. In seguito arriverà il successo, sarà una lunga discografia per Gil Scott Heron, la caduta nell'abisso dell'alcol e della droga, la caduta poi a un dissipare, una vita importante, una depressione coglierà Gil Scott Heron e purtroppo scomparirà nel 2011. And I think I'll call it morning from now on. Why should I survive on sadness and tell myself I've got to be alone? Why should I subscribe to this world's madness, knowing that I've got to live on? Due musicisti sono ripresi nei nostri magazine, di cui ho grande passione, completamente diversi. Uno lo stiamo ascoltando, Gil Scott Heron, nella seconda parte magari o nelle prossime puntate, anche perché è un protagonista con Angelica, è John Zorn, e sulla lettura del Corriere della Sera vi è ampio approfondimento per questo genio. Un po' di sregolatezza, Resta un grande genio John Zorn. I'm gonna take the song from every bird and make them sing it just for me, yeah. E per avere nostalgie di libertà, Marco Anneo Lucano, dovete rispondere a una domanda un po' difficile, soprattutto se non siete felsinei. Però potete farvi aiutare da un'amica o da un amico, in questo caso la rete non vi sarà di grande aiuto. Cosa intendiamo? Lo dico in italiano perché in questo controdizionario vi sono parole prese dal dialetto e poi trasformate in italiano. Quindi, quando un bolognese dice «mi tengo in briga», cosa significa? È difficile da tradurre, perché non vi è, però potete avvicinarvi, secondo me, a questa definizione. Io oggi mi tengo in briga, cioè che significa? Per voi il saggio, quindi passiamo da un linguaggio all'altro ed è bello così, nostalgie di libertà, la voce degli antichi, la protagonista autrice per l'incontro sarà Antonella Prenner, Marco Anneo Lucano, la voce degli antichi, nostalgia di libertà, le edizioni Il Mulino. Ma quando un bolognese dice oggi mi tengo in briga, che significa, cosa intende? Non è facilissimo, però come ho detto potete farvi aiutare, magari se vedo che la risposta tarda do qualche aiutino io stesso. 333-180-9494, a tra poco. Pier Giorgio, e lo dici così, ma puoi ascoltarci ovunque. Io sinceramente lo dico con una malcelata così commozione. Ciao Willy e un saluto a tutti gli amici di Radio Città Fujiko. Domani è il mio ultimo giorno a Bologna dopo quasi 27 anni. Tra i ricordi più belli mi porto con me gli ascolti del Breakfast Club, i consigli di lettura, i vari suggerimenti per mostre ed eventi e la vostra superba selezione musicale. Grazie di cuore, continuerò a mandarti podcast. Grazie veramente. Non vado lontanissimo, risalendo nella provincia veneziana e quando tornerò a Bologna i 103.1 sono fissi nella mia autoradio per le app. Beh, ci penserai, ok, io te la consiglio. Intanto, se non disturbo, guarda, dopo queste belle parole mi prendo l'impegno di mandarti costantemente i podcast e poi sarà tua cura l'ascolto. Per me, beh, ti auguro il meglio, un grande abbraccio e grazie ancora, un abbraccio a te, grazie di cuore, davvero. Woof. Sono Yesterday, New Quintet, e per me è adatto. Sono arrivate due risposte, adesso valutiamo queste due risposte. Allora, un collettivo di giovani scrittori, piaciuto tantissimo sia l'idea che l'articolo, anche se non sono, diciamo così, legato alle immagini che vedo dei robot, proprio una cultura molto steampunk. Non ne sono appassionato, ma ciò non toglie che sia l'estetica, ma soprattutto l'idea di questo, un po' pretenzioso il titolo. Il titolo è The Book, il libro, e lì The Book. Menti affamate e il collettivo Hungry Minds, beh, che decide? Allora, decide di fare un'enciclopedia in caso di anno zero, ok? L'anno zero, cosa lasciamo? Che abbiamo tutto in digitale, abbiamo tutto silicio, non abbiamo più niente, cosa lasciamo? Allora, loro iniziano. Iniziano insegnando come accendere un fuoco con pietre o con dei bacchetti di legno. Iniziano veramente da un'epoca primordiale. Iniziano con bucce di banana come purificare l'acqua. Ecco, per dire. Ma attenzione, non si ferma qui, è un bel tomo, perché arriva fino a creare un bisturi per fare un intervento di appendicite, oppure i rudimenti di ortodonzia. Sì, perché insomma mal di denti è una brutta compagnia, quindi un'immediata cura. Ecco, loro vogliono lasciare un'enciclopedia in caso di anno zero e se per caso vi sarà nuovamente la possibilità sulla Terra di avere la possibilità di ripartire con alcune istruzioni per la nostra civiltà. Insomma, non parla di religione, parla di meditazione, parla di psicoterapia, parla di tanti altri aspetti, se vogliamo, che vanno a curare lo spirito in maniera libera, e sono più di 400 pagine, ben più di 700, è vero, meravigliose illustrazioni. È il manuale definitivo, lo definiscono, dice un sottotitolo che non teme l'ambizione, infatti, per ricostruire la civiltà. C'è tutto ciò che ha reso l'umanità ciò che è e che conviene conservare per un futuro migliore. È Marsilio che decide di pubblicare questo lavoro, il primo editore al mondo che lo pubblica, con un invito ai lettori. E magari potrei chiederlo anche voi. E voi cosa conservereste? Primo Andrea, oggi mi tengo in briga, che non ho voglia di fare niente. Sì, dai, però lo devi fare. Tien in briga, lo faccio malvolentieri, bisogna farlo. Devo andare, non so, devo vestirmi in maniera più pesante. Tien in briga, mi tengo in briga a vestirmi in maniera più pesante. Ecco, dico l'idea che per la quale mi tengo in briga io, scusate l'accenno personale. Però è questo, ti propri un tint in briga, è per dire di una persona in effetti che non ha voglia di fare. Luigi dice: io lo uso come non ne avrei voglia. Ecco, che dire, eh? Diamo il premio a Luigi, perché io lo devo fare, ma non ne avrei voglia. E per quanto riguarda questa sfumatura, un premio di consolazione ad Andrea. E un grande abbraccio e un grazie ad entrambi per aver giocato con il Breakfast Club nello speciale saggistica all'interno dei magazine. Vi contatterò al termine del format e intanto con un po' di musica facciamo uno stacco che ci accompagnerà al last minute di oggi dopo la pubblicità e parleremo di Crisalide Festival, ok? A tra poco, non cambiate frequenza ai 103.1 di Radio Città Fujiko per iniziare la settimana. Oggi lunedì 16 ottobre, a tra poco. That was it. And I would recommend if somebody's really serious about music to study. But I was hungry and hungrier to get into some new sounds. And the first electronic instrument, keyboard instrument I ran across, there are a lot of electronic pianos around. The one I particularly like is the Fender Rhodes electric piano. Then there's the electric clavinet. It's really like an electric clavichord, and it has strings, and it has little rubber hammers that hit the... Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. E apriamo la parentesi Last Minute. Seguiamo da tempo il Festival Crisalide a Forlì, arti performative e filosofia, con un titolo molto particolare: Pluralità del sensibile. Arriverà una seconda parte già dal 20 ottobre. Ne parleremo con Lorenzo Bazzocchi di Mask Teatro, che è qua al telefono con noi. Buongiorno e bentornato, Lorenzo. Buongiorno a voi. Allora, abbiamo continuità a questa rassegna e ci può parlare in che modo, come sarà il procedere di Crisalide tra arti performative e filosofia? A lei la parola. Diciamo che Crisalide intanto giunge quest'anno il suo 30° anno di vita, quindi 30 edizioni, e la caratteristica del festival è sempre stata quella di assumere un tema, un titolo che ne indicasse le possibili tracce, le possibili operatività. Quest'anno è pluralità del sensibile, per l'appunto, come accennavi, diciamo, pluralità del sensibile, forse diciamo si riallaccia a una tensione che viene messa in campo da uno studioso francese che è Jacques Rancière, che individua nella, diciamo, nella partizione del sensibile una possibilità di collegare le pratiche artistiche con qualcosa che sembrerebbe ad essere lontano, ma che noi sentiamo invece assolutamente contingente, il mondo del lavoro. Quindi Rancière, insomma, si auspica che attraverso diciamo l'intreccio di una pluralità di attività umane si possa giungere a condizioni di senso e a costituire, forse lui si auspica, un mondo comune, diciamo, se si può dire così, risultante dalla sedimentazione di atti interconnessi, come lui li definisce. E Crisalide accoglie questa sua tensione come, diciamo, come sempre, individuando questo un tema che per noi comunque rimane unicamente una sorta di recinto, un recinto di studi, diciamo, all'interno del quale poter meglio accogliere gli artisti, gli studiosi e naturalmente anche il pubblico. Si inizia venerdì 20 ottobre, ovviamente 2023, al Teatro Felix Gualtieri di Forlì. Ci può dire in che modo? Sì, diciamo che Crisalide quest'anno si è suddivisa in due step. Impiego, diciamo, qualche secondo per descrivere il primo step estivo dal 25 al 27 agosto, che ha visto le sue fasi in prossimità del fiume Bidente, località Meldola, vicinissimo ai luoghi dell'esondazione. Diverse compagnie di teatro e danza si sono succedute in spazi aperti, appunto, e questo ha creato una dimensione che avevamo replicato già l'anno scorso, in una condizione appunto di apertura che, insomma, ha dato linfa nuova anche a tensioni, a visioni, e forse ha preparato questo step, diciamo, autunnale che si appresta al suo cominciamento. In effetti venerdì 20 ottobre abbiamo la ripresa del festival. Certo. Ho visto tra i partecipanti i nomi, insomma, di tutto riguardo. Ci può dire qualche protagonista all'interno della rassegna? Sì, senz'altro. Proprio venerdì 20 ottobre si inizia con Marco D'Agostin, diciamo noto coreografo e danzatore, che porta un lavoro molto particolare, Gli anni, di cui lui non è interprete. È in scena una straordinaria Marta Ciappina. Il venerdì 20 ottobre è l'inizio di un weekend molto denso. La seconda parte effettivamente del festival si svolge all'incirca in un mese, dal 20 ottobre al 19 novembre. Nel sabato 21 ottobre abbiamo una giornata densa di appuntamenti con la Minari, la compagnia bolognese, sì, che porta una particolare performance, installazione, è tutto qui. Poi vorrei far mettere il punto sulla performance di Cristina Cristalrizzo, che porta una creazione storica ideata assieme al gruppo Chincalè, di questo paso doble. Certo, ho visto anche la compagnia riminese Motus, e insomma, sì, ve ne sono diverse ed è assolutamente da almeno seguire, anche se siamo seppur vicina a Bologna. Sapete bene che il Breakfast Club dà lo sguardo assolutamente anche al di fuori della nostra provincia e seguiamo da tempo Crisalide. È curato da Mask Teatro. Le sedi e poi qualche indicazione per avere più comodamente la rassegna anche digitale, online, almeno che il digitale ci venga in aiuto in qualche modo in questo caso. Ci può dire qualcosa di più? Sì, diciamo la sessione, diciamo, autunnale si svolge tutta all'interno degli spazi del Teatro Félix Gattari, che è via Orto del Fuoco 3 a Forlì, e nello spazio della compagnia Maschera Teatro, che ne cura l'organizzazione. Certo. Per trovare tutte le info è sufficiente rivolgersi sia al sito della compagnia, che è www.maschera.it, o altrimenti a quello del festival, che è crisaldefestival.eu. Bene, io la ringrazio tantissimo per grazie questa a voi. Partecipazione, e niente, buon festival e buona rassegna, buona Crisalide. Grazie. Grazie, altrettanto, buon lavoro. Questo è un tutti i tempi. Particolare con me, particolare la casa discografica, la Hat Record Apology si chiama, infatti questa collana. Vi ho parlato di un John Zorn ed eccolo qui, John Zorn insieme a George Lewis al trombone e Bill Frisell alla chitarra. Allora, John Zorn sarà, per quanto riguarda la rassegna angelica, protagonista, e ne faremo, non dico monografia perché è impossibile fare la monografia di un genio e sregolatezza così, così intenso, e veramente ha inciso. Lui penso che ogni settimana faccia uscire un disco. Ne approfitto perché vi è l'articolo a pagina 38 sulla lettura del Corriere della Sera. Sarà la Chiesa dei Servi, lui al contralto e all'organo della stessa chiesa, che diventa sede concertistica alla mezzanotte del 31, mi pare, poi darò indicazioni più precise per questo concerto all'interno della rassegna angelica. Sarà presente anche a Reggio Emilia, farà una sorta di tour emiliano per teatro, musica e quello che è avanguardia all'interno della rassegna angelica. Già domani avremo un last minute dedicato a Angelica. Comunque, John Zorn, il titolo è Oh, ora vado in chiesa. È una tra le figure carismatiche della scena musicale, attraversa i generi con l'improvvisazione. Sassofonista e compositore, si esibirà in Italia pure all'organo. Amo le situazioni dove si deve scegliere. Nell'articolo di Helmut Pailoni sul della lettura del Corriere della Sera, un articolo molto esteso, anche perché presentare John Zorn, come vi ho detto, non è affatto semplice. Questo lavoro, insieme a Bill Frisell alla chitarra e George Lewis al trombone, resta comunque tra l'immensa discografia di John Zorn. Questo l'ho sottolineato, l'ho evidenziato, ecco. Ha ripreso il blues iniziale, il tema del brano, prima è un'improvvisazione selvaggia in un trio atipico, trombone, chitarra e contralto. E quindi è da seguire assolutamente, poi darò le indicazioni in maniera più precisa, perché veramente fa diverse serate, eh? A World of Magic and Incantation in Praise of the Godness, con Barbara Hannigan alla voce. Insomma, ci sono diverse cose che stanno attirando la mia attenzione. Steven Gosling, Heaven and Heart Magic, certo, è musica che alza un bel po' l'asticella, e ovviamente la curiosità è la principale realtà di ingrediente per seguire Angelica. Sto leggendo il programma, insomma, per quello che sarà nei prossimi giorni, e per i 70 anni di John Zorn avremo modo di darne un approfondimento magari nei nostri Altri Suoni, che già da domani con Walter Rovere presenterà la serata di mercoledì. Io chiudo con la curiosità del Torrione, un concerto bellissimo, un concerto di modern mainstream jazz veramente di pregevolissima fattura, è bello, un Danny Grissett al pianoforte spettacolare. Newman è il sax tenore di Jerome Sabbag. A proposito di un programma pregevole ma di grande curiosità, Jazz Club Ferrara, e quindi avremo modo di seguirlo con Jazz Live. E domani la presentazione in conferenza stampa del Bologna Jazz Festival. Bravo, lui è bello accattivante, lui ti fa, insomma, in questo giardino che è il jazz, lui ti tiene lì. Vi invito a colazione domani con il Move to Groove e altri suoni in apertura per la serata di mercoledì di Angelica. E quindi una buona giornata, un buon ascolto sulle nostre frequenze e certo, non dimentico il caloroso abbraccio che vi arriva dalle lunghe braccia di William Piana per augurarvi un buonissimo lunedì, una buona settimana, un buon ascolto sempre in frequenza con Radio Città Fujiko. A domani col Move to Groove. Ciao a tutte, ciao a tutti. A breve abbiamo il Edipeo enciclopedico, bella questa dislessia. Dopodiché Liberi Dentro e rassegna stampa il lunedì è con Mingo and Company per Caffè e Paglia. A tutte e a tutti, buon ascolto. Ciao dal vostro William Piana. Ciao, ciao.